Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria: alcune reazioni alle parole ormai arcinote del ministro Tremonti ieri. Abbiamo dedicato anche uno spazio noi, così un po' anche giocando su questo ritorno al posto fisso. L'idea del ministro Tremonti è anche un'idea soprattutto politica. Reazioni oggi però dal mondo della politica e anche dell'economia. Parleremo in apertura di scuola, perché di nuovo sul Sole 24 Ore, sul sito del Sole 24 Ore, è presente anche il dato sui tagli all'istruzione: 7 miliardi e 300 milioni di euro in meno per i prossimi tre anni, 1 miliardo e 600 mila euro in meno nel 2010, 2 miliardi e mezzo nel 2011, 3 miliardi e 2 nel 2012. Tra l'altro, questo è contenuto nella manovra di bilancio per il 2010, che è sbarcata in Senato, sbarcata lo scorso 7 ottobre, ma proprio sulla manovra di bilancio c'è una cura da cavallo già introdotta con la manovra estiva del 2008, perché nel caso specifico università 600 milioni in meno, istruzione secondaria di primo grado praticamente 200 milioni in meno solo per l'anno prossimo, istruzione secondaria di secondo grado, quindi le superiori, 141 milioni in più, scuole private 4 milioni di euro in più, e poi il fondo interventi istruzione 120 milioni di euro in meno. Il tema sarà, insomma, chiaro, se un paese in un momento di crisi come questo si possa permettere dei tagli del genere sull'istruzione. Non tutti la pensano nello stesso modo, vi anticipo già che infatti c'è chi dice i soldi contano molto poco su quello che poi è il rendimento, la produttività, si chiamerebbe in altri luoghi, dell'istruzione. E chiaramente lo colleghiamo però anche a questa polemica molto politica sul posto fisso, posto flessibile, visto che all'interno di queste cifre ci sono anche i 40.000 insegnanti precari che continuano a essere in agitazione. Dopodiché parleremo di mercati. I mercati oggi conoscono la prima correzione della settimana, dopo il record sul 2009 toccato ieri anche da Milano, meno 0,7%, poca roba la correzione oggi, per fortuna dicono alcuni, meno 0,4% Parigi e anche Francoforte, e Londra, lo 0,3% lo perde l'America in questo momento sul Dow Jones e anche sullo Standard & Poor's. Borse quindi sempre su livelli alti, tra i titoli chi cede: le CIR il 4%, UBI Banca il 2,80%, Prismian il 2,3%, Unipol perde il 2%, Eni il 1,4% come Luxottica, l'1,2% lo perde Fondiaria Sai e anche le Generali e Mondadori ed Exor e Finmeccanica. Mediolanum meno 1% come Unicredito, Italcementi, Pirelli, Parmalat e Autogrill. Chi guadagna: Tenaris più 1,8%, Bulgari più 1,6%, Telecom più 0,7% come il Banco Popolare, mezzo punto percentuale il rialzo di Atlantia. Euro fermo ma sempre su livelli di forza 1,4930 in questo momento. Il petrolio invece ha rialzato la testa, adesso ne parleremo. Vi anticipo che tra i temi che tratteremo ci sono anche i dati sulla produzione industriale d'agosto, mai così male anno su anno, va detto che agosto dovrebbe essere mese su mese, quindi congiunturale, va detto che agosto dovrebbe essere il mese peggiore di questa fase di recessione economica. Ancora cercheremo di avere un aggiornamento dal vertice dei ministri economico-finanziari, non si sta raggiungendo un accordo, ne parleremo anche a breve su quello che riguarda il Lussemburgo, e infine avremo un approfondimento sul Riga, notizia secondo noi più che buona, il via, l'apertura ufficiale del rigassificatore di Rovigo, quello che permetterà da solo di rigassificare, cioè di fornire alla rete italiana il 10% di tutto il gas che utilizziamo in un anno, e quindi dovrebbe mettere l'Italia al riparo da quelle tensioni che alcuni di voi ricorderanno 2 anni fa, quando si bloccarono le forniture di gas della Russia verso l'Europa per via del scontro con l'Ucraina. Insomma, l'Italia rischiò molto. Il rigassificatore rientra in quella logica della diversificazione delle fonti di approvvigionamento, visto che il gas arriva liquido e poi viene rigassificato. Un'opera importante, quindi a 17 km dalla costa italiana. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Un po' di pazienza, vedo già molti sms, alcuni che dicono sulla scuola, i tagli riguardano gli sprechi, gli esuberi, ricordatelo, altri dicono attenzione, se non si investe nella scuola non si investe nel futuro. Avremo una dialettica forte, lo dico già, perché fra poco vi presenterò l'ospite nostro che non la pensa, diciamo, in maniera così convenzionale sui tagli della scuola. Ma andiamo avanti con la notizia in breve. Il petrolio è aperto sotto gli $80 al barile, ma insomma si stava viaggiando sempre sui massimi da un anno a questa parte, mentre in tema di energia oggi il numero uno dell'ENI, Paolo Scaroni, ha annunciato che la costruzione del gasdotto South Stream, quello che è frutto di un accordo con la russa Gazprom, potrebbe cominciare già alla fine del 2010. E purtroppo inizia a incamerare i rialzi del petrolio anche il prezzo della benzina, sopra 1,30 euro. Per 1,3 euro per Agip, Esso, Shell e Total, un incremento di 20 millesimi, il quinto rialzo consecutivo. In tema di auto, oggi, come diffuso dall'ufficio studi di LeasePlan, per la prima volta gli italiani hanno tagliato i costi anche sull'auto. Spenderanno infatti l'8,5% in meno nel 2009 per cui per acquisto, ma anche per carburanti e altre voci collegate all'uso dell'auto, e cioè scenderà la spesa complessiva del paese a 194 miliardi di euro contro i 212 del 2008. Dicevamo dei dati Istat, ne parleremo più avanti. Comunque, fatturato ad agosto ha fatto meno 21% rispetto all'anno precedente, ad agosto 2008, e meno 1,4 rispetto a luglio. Gli ordinativi industriali invece, che ci preoccupano ancora di più perché dovrebbero essere un indicatore anticipatore, cioè quando ripartono gli ordini dovrebbe poi ripartono anche i fatturati, la produzione, i fatturati. Ebbene, il dato è particolarmente negativo, meno 27% gli ordinativi all'industria ad agosto rispetto ad agosto del 2008, ma soprattutto quello che ci lascia un po' perplessi è il forte calo agosto su luglio, il dato congiunturale meno 8,6%, è il calo più ampio da quando esiste la serie statistica paragonabile, quindi dal 2000, dal gennaio del 2000 per la precisione. La presidente Confindustria Marcegaglia comunque ha detto attenzione, i dati di agosto sono sempre poco significativi, è un mese di ferie e poi tra l'altro quest'anno proprio per via della crisi sappiamo, l'abbiamo raccontato più volte, che molte imprese, moltissime imprese hanno allungato il periodo di ferie per i lavoratori e hanno anche chiesto di prendere molte delle ferie arretrate. Posto fisso, posto mobile, mobilità sul lavoro. E allora, dopo la frase di ieri del ministro dell'economia Giulio Tremonti, oggi, già ieri sera, ma oggi a maggior ragione, le reazioni. Ascoltiamo il ministro Tremonti ieri in questo, insomma, elogio del posto fisso come valore. Io non credo, e ho sempre pensato e scritto, non credo che la mobilità sia di per sé un valore. Credo che per strutture sociali come le nostre e storiche il posto fisso è la base su cui organizzi il tuo progetto di vita e su cui fai la famiglia. La variabilità del posto di lavoro, la incertezza, la mutabilità, la precarietà per alcuni sono un valore in sé, in un darwinismo sociale che porta a costruire un mito di tutto questo. Per me onestamente no, può essere un pezzo della realtà che non puoi modificare, ma per me l'obiettivo fondamentale è ancora, se possibile, la stabilità, base per la stabilità, sulla stabilità del lavoro, base della stabilità sociale. Eh, Sì, ieri abbiamo anche un po' scherzato mettendo l'inno dell'Internazionale comunista sotto queste dichiarazioni. Abbiamo fatto sentire anche quelle di una settimana fa, quando Tremonti disse: avete voluto le privatizzazioni, si stava meglio con le BIN, con le banche di interesse nazionale, con l'Enel non privatizzata. Insomma, questa visione su cui oggi molti giornali sprecano interpretazioni. Sprecare forse no, ma si lanciano interpretazioni di un Tremonti, di una Lega che vuole in qualche modo occupare spazi lasciati liberi dal PD. Non sono temi di questo programma, non faremo un approfondimento su una dichiarazione e su un pensiero di un ministro, visto che non c'è nessun provvedimento concreto in corso, però vediamo la cronaca e quindi il commento del ministro Claudio Scajola, che la pensa in maniera leggermente diversa dal ministro Tremonti. È sicuramente vero che c'è troppa precarietà. È sicuramente vero che dovremmo trovare il modo che la precarietà dopo un certo periodo si stabilizzi, ma è altrettanto vero che il mondo dell'impresa ha bisogno di una quota di flessibilità. La quota di flessibilità è quella che permette alle imprese di poter competere. Mi piace forse anche dire che se la disoccupazione in Italia è scesa dai dati intorno al 12-13% al 7-8%, questo è dovuto anche alla flessibilità. Si devono contemperare queste due esigenze. Io ricordo, visto che c'è chi scrive, che sul tappeto ci sono due proposte, una del parlamentare del PD Pietro Ichino, che insomma è molto vicino anche a alcune posizioni del centrodestra, cioè non c'è, non è, una è una proposta che potrebbe essere tranquillamente bipartisan, in cui si dice: creiamo una flex security alla Scandinava, cioè rendiamo flessibili i contratti ma diamo molte garanzie per chi perde il posto di lavoro, garanzie di riqualificazione, di formazione e anche il fatto che chi poi ha perso il lavoro non possa rifiutare una nuova offerta di lavoro, un po' come avviene nei paesi scandinavi. Poi c'è un'altra proposta che, se non ricordo male, è quella di Boeri, di due economisti del lavoro, Boeri e Garibaldi, in cui si dice: andiamo a strutturare, irrigidire sempre di più il contratto, più tempo passa il dipendente nel luogo di lavoro, perché tu parti, tutti partirebbero con un lavoro e con un contratto molto flessibile, che poi può diventare un po' più strutturato, può diventare un tempo determinato e poi può diventare un tempo indeterminato. In questo modo l'impresa è in grado di valutare anche la resa e il rapporto con il dipendente e conseguentemente però è anche obbligata a strutturare un rapporto, perché non è pensabile che se tu hai un dipendente o una persona che lavora per te per 2, 3, 4, 5 anni tu lo tenga ancora con forme contrattuali flessibili. E su questo siamo sempre stati, diciamo, di quest'idea. Sentiamo sul tema del lavoro flessibile, lavoro precario, lavoro posto fisso, anche il ministro welfare Maurizio Sacconi. Io non commento mai i miei colleghi di governo, osservo soltanto che ovviamente nessuno vuole subire la mobilità da posto a posto di lavoro. Ciascuno vorrebbe poter scegliere il momento nel quale cambiare e cambiare ovviamente in meglio. D'altronde la continuità del posto di lavoro non si afferma con norme di legge, deve essere affidata soprattutto alla cosiddetta occupabilità del lavoratore, a ciò che cioè lo fa forte nel mercato del lavoro perché ha conoscenze, competenze. Direi che un diritto fondamentale nel lavoro nell'epoca moderna è il diritto continuo alla conoscenza, al miglioramento delle proprie competenze. Sacconi, questo dà modo al lavoratore di decidere del proprio percorso lavorativo. Così il ministro del welfare Maurizio Sacconi questa mattina al programma su Canale 5 Mattino 5. Vedo molti messaggi dentro il computer in cui in sostanza si dice: attenzione, adesso qualcuno lo leggiamo anche, è difficile ottenere un mutuo in banca se sei un lavoro a tempo determinato, se hai un lavoro di carattere flessibile non l'assunzione a tempo determinato, avete ragione, siamo d'accordo. Comunque, visto che molti di voi vogliono sapere anche cosa ne pensi il ministro Brunetta ha detto oggi: Tremonti vorrebbe una nuova società dei salariati, solo che questa non risponde alle esigenze di flessibilità che pone il sistema. La sua è una soluzione del Novecento che non va più bene in questo secolo, non si può tornare indietro. Ed è interessante notare che insomma tre ministri che vengono dalla scuola socialista, mi riferisco a Tremonti, Sacconi e anche Brunetta, su questo la pensino in maniera diversa e anche leggermente diversa l'uno con l'altro. La presidente Confindustria Marcegaglia poco fa al microfono del nostro Vincenzo Miglietta così ha commentato invece insomma, l'affermazione del ministro Tremonti di ieri. Nessuno è a favore della precarietà e dell'insicurezza in un momento come questo in particolare, però noi siamo per la stabilità delle imprese e dei posti di lavoro, che peraltro non si fa per legge, mentre riteniamo che la cultura del posto fisso è un ritorno al passato non possibile, che peraltro in questo paese ha creato problemi, ha creato un aumento di disoccupazione, ha creato l'aumento del sommerso per esempio al mezzogiorno e ha creato per esempio la cultura del posto fisso nella pubblica amministrazione, questa logica dell'assenteismo, dei fanulloni tanto deprecato. Quindi il problema non è tanto questo, il problema è da una parte fare le riforme per rendere le imprese più competitive, dall'altra fare una flessibilità regolata e tutelata, che è quella che si è fatta con Treu, con Biagi, che ha creato 3 milioni di posti di lavoro, non ce lo dimentichiamo. E staremo a vedere. A me personalmente sembra che in questo momento sia più un problema di collocazione politica, di scenario. Ripeto, molte analisi oggi facevano notare come in questo modo il ministro Tremonti e anche una certa componente della Lega stia di fatto occupando spazi lasciati liberi da un PD che ha abbracciato il libero mercato quando sono nati i dubbi invece sul corretto funzionamento, visto quello che è successo con la crisi recente. Però come facevamo notare ieri, esiste un ministro Tremonti, ministro dell'economia, che deve tenere le casse dello Stato in ordine, comunque non farle debordare, e poi esiste un Tremonti anche pensatore, chiamano così, economico, con la sua idea politica. Il secondo è quello che ha parlato nei termini che abbiamo ricordato delle privatizzazioni, del mercatismo, dell'ideologia mercatista del posto fisso, e anche così immaginato un'economia sociale di mercato. Il primo, il Tremonti che ha in mano i conti pubblici, è quello che invece nella finanziaria che è sbarcata in Senato lo scorso 7 ottobre ha tagliato radicalmente le spese di molti ministeri, e per quello che riguarda le spese per l'istruzione si profila una vera e propria doccia fredda. Cura da cavallo, dicono alcuni. Non stiamo parlando solo dei 40.000 insegnanti precari, che sono insegnanti di vario tipo, anche insegnanti di sostegno, ma soprattutto dei 7 miliardi e 300 milioni di euro che verranno tagliati nei prossimi 3 anni al Ministero dell'Istruzione. Cioè dovrà trovarli in altro modo, immagino attraverso i risparmi. 1 miliardo e 600 milioni di euro in meno l'anno prossimo, 2 miliardi e mezzo in meno nel 2011, 3 miliardi e 200 milioni in meno nel 2012. Dove arriveranno i tagli? Parliamo dell'anno prossimo, in questo caso 620 milioni in meno all'università, 160 milioni in meno alla ricerca e innovazione, 200 milioni in meno alle scuole medie di primo grado, 120 milioni in meno al fondo interventi istruzione. L'unica voce che è in positivo è l'istruzione secondaria, le scuole superiori più 140 milioni. E poi anche le scuole private che riceveranno 4 milioni di euro in più. E già ieri raccontavamo di come si stiano riducendo sempre di più i fondi a disposizione della scuola anche per quella dote speciale nelle mani di scuole e uffici scolastici introdotta nel 1997 con la legge 440, che serve per formare il personale, per pagare gli insegnanti di sostegno per i disabili, per l'innovazione, per l'alleanza scuola-lavoro. Insomma, valeva quel fondo 270 milioni, verrà decurtato di 2/3 e arriverà a 100 milioni. E della notizia ringraziamo il sito del Sole 24 Ore che per primo ieri l'ha pubblicata. Roger Abravanel, autore di Meritocrazia, ex senior director di McKinsey, consulente se possiamo dirlo, ma comunque molto ascoltato dal ministro Gelmini. Buonasera. Salve, buonasera. Allora, partiamo subito dritti senza girarci attorno. Un paese che in un momento di crisi e di difficoltà taglia sulla scuola, secondo molte persone, è un paese che sta tagliando sul suo futuro. Allora vorrei capire se esista un rapporto tra investimenti nell'istruzione e risultato finale, perché insomma 7 miliardi e 3 non sono poca cosa. Dopodiché sappiamo tutti che ci sono degli sprechi, sappiamo tutti che diciamo che la scuola forma male in molte regioni italiane, però chiunque di noi abbia visto o abbia avuto esperienza di un asilo, di una scuola elementare, di una scuola media, non può dire, diciamo, che gli insegnanti italiani navighino nell'oro e che gli sprechi siano all'ordine del giorno. Non stiamo parlando delle consulenze di certi ministeri, di iniziative faraoniche che di dubbio risultato, di dubbio tornaconto. Qui parliamo degli insegnanti, dei nostri figli, dei nostri nipoti, dei figli dei nostri amici. Ma intanto scusi, io sono un consulente inascoltato e gratuito. Tanto noi non la paghiamo, questo, e mi sembra che con Italia l'istruzione ce ne sarà poca anche per lei. Comunque, sono un consulente dello Stato, se vuole. Certo. Ma il punto è, io a gennaio ero a Singapore e ho visto una cosa singolare. Singapore è uno dei migliori sistemi educativi del mondo. Prima pagina di un quotidiano, grande crisi a Singapore. Il titolare di una più grande società di executive search, che era chiusa, quindi di ricerca di personale, aveva chiuso per la crisi e è andato a fare l'insegnante. Lo Stato approfittava della crisi per prendere persone molto valide dal privato e assumere. Quindi è chiaro che Singapore è uno dei migliori sistemi educativi, i sistemi vincenti investono nell'istruzione. Il problema dell'istruzione è che gli investimenti si vedono a 10-20 anni. Il secondo problema è molto semplice, che oggi, e questo è il problema grande che abbiamo in Italia, è difficile capire il ritorno di questa spesa, perché non c'è nessun modo per misurare il ritorno della spesa, perché per esempio la qualità del sistema delle scuole non è valutabile. In Italia non esiste un modo per capire se una scuola è migliore di un'altra, non esistono test nazionali standard. Sappiamo benissimo che alla maturità ci sono stati 3.500 lode, di cui una grandissima parte non era meritata, e sappiamo quindi che le scuole non si possono valutare. Questo è altro modo più importante, perché non c'è nessuna correlazione a breve fra spendere di più e, se vuole, miglioramento della qualità. Gli Stati Uniti, che hanno le migliori università del mondo, effettivamente spendono di più in università, ma spendono anche di più nelle scuole e hanno delle pessime scuole. Quello che conta quindi non è quanto si spende, ma come si spende. E quello che è molto importante è quindi poter misurare il ritorno delle scuole e dell'università e poi investire in maniera giusta su che cosa? Sull'unica cosa che conta, la qualità dell'insegnamento. Perché quello che si vede sempre di più è che non c'è nessuna correlazione fra i risultati delle scuole e la quantità. Per esempio, le migliori scuole del mondo sono le finlandesi, sono quelle dove si fanno meno ore di istruzione. Le scuole dove si insegna di più sono quelle italiane, che pure vengono fuori tra le peggiori del mondo occidentale sulla base dei test PISA. Allora, il test PISA, lo dico per tutti, quel test valido a livello mondiale in cui si va a valutare la qualità della preparazione di uno studente. Dottor Bravanel, dopo le informazioni meteo e la pubblicità, io ho capito benissimo il suo ragionamento e parzialmente lo condivido, anche perché insomma, non è detto che mettere soldi nell'istruzione o aumentare le ore di insegnamento dia una maggiore resa. Però è sicuramente vero che non funziona al contrario. Ecco, su questo vorrei una sua risposta dopo. Cioè, mettere soldi se il sistema è inefficiente probabilmente non dà i risultati ottenuti, ma levare i soldi non dà nessun risultato. Cioè, diciamo che avere una scuola anche con dei finanziamenti dovrebbe essere una condizione necessaria, non sufficiente, ma necessaria per avere anche una migliore istruzione. Anche perché su questo, visto che lei ha lavorato tantissimi anni in McKinsey, la vorrei sentire dopo, è innegabile che se noi continuiamo a pagare agli insegnanti le cifre che li paghiamo, cioè diventa, per essere buoni, poco attraente fare l'insegnante. Allora cosa facciamo? Una selezione inversa, cioè quelli che non riescono a fare, i manager, gli assicuratori, i medici, i giornalisti, gli avvocati, quello che volete voi, poi ce li troviamo a fare gli insegnanti. Non mi sembra che un paese che seleziona l'insegnante sulla base del basso reddito sia un paese che va lontano. Mi permette anche una battuta su Singapore. Beh, se quei manager, quei geni della finanza poi se li sono beccati a scuola, riusciranno a fare due danni in una volta sola. Comunque. ...17:39 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dottor Bravanel, si può dire che, per carità, non è investendo che si ottengono i risultati, ma sicuramente tagliando l'istruzione i risultati non arrivano. E vorrei anche un suo commento sugli stipendi degli insegnanti. Chiaramente stiamo parlando di scuola dell'obbligo, non stiamo parlando di università, poi arriviamo all'università. Prego. Allora, secondo me bisogna chiarire una volta per tutte agli italiani qual è la situazione. Il problema è che i nostri insegnanti sono tra i peggio pagati d'Europa. In percentuale della spesa totale o del PIL totale, però la scuola italiana non è tanto meno del re, è più o meno in linea. Perché? Perché la nostra scuola è uno stipendificio. Fondamentalmente ci sono troppi insegnanti. Abbiamo 800.000 insegnanti, dei quali ce ne saranno 300-400.000 molto bravi, che hanno una gran voglia di motivare, che dovrebbero essere pagati molto di più, e ce ne sono altri che sono un po' meno bravi, un po' meno motivati. Il problema, mi scusi, una volta per tutte, non è il problema degli insegnanti, è il problema degli studenti, perché noi oggi siamo in una situazione di emergenza educativa, soprattutto nel centro-sud Italia, perché i risultati delle nostre scuole, misurate attraverso questi test PISA, che misurano la qualità delle scuole sulla base del rendimento dello studente. Le migliori sono quelle i cui studenti vanno meglio a questi test standard. I nostri risultati dimostrano che al centro-sud siamo a livello dell'Uruguay e della Thailandia. Non è spendendo di più, ma spendendo meglio. E questo cosa vuol dire? Bisogna prima di tutto misurare attraverso dei modi obiettivi e non nel modo come vengono dati i voti oggi, perché oggi vengono dati i voti buoni perché questo è quello che vogliono i parenti, quindi misurare attraverso dei test standard. Noi abbiamo una struttura che si chiama l'Invalsi oggi in Italia, che è commissariata, che dovrebbe far questo, e oltretutto spesso in molte di queste scuole questi test vengono addirittura falsi, chi suggerisce i risultati sono gli insegnanti stessi. Secondo problema, la formazione degli insegnanti. Se lei va in Finlandia, dove ci sono le migliori scuole del mondo, i migliori insegnanti aiutano gli insegnanti più in difficoltà. Da noi la formazione non esiste, l'altro istituto che deve fare questo, che si chiama Indire, è commissariato anche lui. Terzo, l'ispezione. Se lei va in Inghilterra ci sono 1500 Her Majesty Inspector, in Francia 3000, che vanno nelle scuole, si siedono con i presidi e dicono: come è migliorato l'insegnamento? Cosa fa? Da noi esistono 100 che non si possono più chiamare ispettori, ma si chiamano dirigenti tecnici, e entrano, vanno nelle scuole solo quando un bambino picchia la maestra. Terzo, la selezione. In Finlandia il 5% dei migliori laureati vanno a fare gli insegnanti. Da noi ci sono questi concorsi che sono una cosa spaventosa. Qual è il problema per questa emergenza educativa? Il problema è molto semplice, che gli italiani hanno la scuola come ultima priorità. Se va a chiedere le priorità degli italiani qual è? La prima è il posto di lavoro, poi i risparmi, poi la sanità. La scuola è l'ultima. Perché? Perché sono contenti. Hanno i voti buoni, l'importante è avere i buoni voti, i figli devono andare a scuola e poi basta. Se lei va a vedere gli ultimi risultati di questa analisi del nuovo analfabetismo, che oggi saper leggere vuol dire non solo saper leggere ma capire quello che si legge, noi siamo a livello di analfabetizzazione, livello in cui a livello del Nuovo León e del Messico, 80% degli italiani sono analfabeti secondo questa nuova forma di definizione dell'alfabetismo. Quindi noi abbiamo un'emergenza educativa colossale. Continuare a parlare dei problemi del costo vuol dire distrarre gli italiani, sia da parte di chi guida il paese, sia da parte di chi comunica. Dopodiché dobbiamo sicuramente spendere di più, ma il problema è la qualità degli insegnanti e deve essere misurata. E ripeto, ci sono almeno 300.000 insegnanti italiani bravissimi, che peraltro non ne possono più di far parte di una categoria che è demotivata e che comunque non dà risultati. Allora, nell'ordine, d'accordissimo con lei, noi siamo ai vertici mondiali, ci batte solo il Cile per ore passate in classe tra i 7 e i 14 anni. E siamo anche ai vertici per numero di persone che si occupano degli studenti, siamo a 156 tra insegnanti e altro personale ogni 1000 allievi, nei 30 paesi OCSE siamo a 116 come media. La spesa per studente in Italia è anche superiore alla media dell'OCSE, però poi noi abbiamo gli unici insegnanti, nemmeno la Bulgaria e la Romania hanno un livello del genere, che non vengono mai valutati, quindi a deperimento dei migliori. Resto dell'idea che in questo momento si vedano solo i tagli ma non la riforma, che tagli che tra l'altro costeranno anche il posto a circa 40.000 insegnanti precari. Va benissimo, però a questo punto non si può dire il posto fisso è un valore e poi diciamo far saltare posto a 40.000 precari, secondo me. Ma in secondo luogo, dottor Abravanel, mi sfugge un particolare, cioè a me sembra che qua si vada a tagliare sull'istruzione, perché tanto l'istruzione alla fin fine non porta voti, o se li porta da un'altra parte, e sia molto più politicamente pesante andare a aumentare l'aliquota fiscale in certi redditi e fare altre cose. Cioè, non vorrei che con la storia che la nostra istruzione è inefficiente, e siamo d'accordo, però l'unico risultato fosse levare le risorse. Se poi lei mi dice che i nostri insegnanti sono poco motivati, che da noi non interessano gli insegnanti, beh, per anni, diciamo, non è che questo paese abbia proiettato come modello quello dell'insegnante, ha proiettato come modello altri modelli, ognuno pensi a quello, a quello che vuole. Perché è diverso invece il caso dell'università? Allora, prima di tutto chiariamo una cosa molto importante. Oggi lei ha perfettamente ragione. Si è solo sentito parlare di tagli, non si è sentito parlare di miglioramento di qualità. Questo, parlo della scuola, è su questo che bisogna battere. Non si è sentito parlare d'altro che di tagli. Dopodiché l'efficienza c'è, ma non è quello il problema. Quindi l'Italia si è spaccata in due sul problema sbagliato. Quindi dobbiamo tutti insistere, io sono il primo a farlo, di parlare di qualità, e ho le idee molto precise, ho fatto delle proposte, come ho detto fino ad oggi, inascoltate, su come misurare e migliorare la qualità, che non vuol dire necessariamente subito spendere di più. Venendo all'università, il problema è un altro. Qual è il problema del nostro sistema universitario? È molto semplice, noi abbiamo pochi laureati, non il laureato come lei o me, il laureato tradizionale, ma il laureato triennale, il laureato della laurea breve, chiamiamolo, no? O la laurea vocazionale applicativa, mentre di laureati normali ne abbiamo come gli altri paesi. E poi abbiamo poche università d'eccellenza, neanche una fra le top 100 e tra le top 150, che vuol dire non abbiamo l'eccellenza, la leadership, la ricerca. Abbiamo però una novantina di università che sono tutte aspiranti MIT, che però non producono abbastanza laureati, non c'è una sola università nel mondo, nelle 300 mondiali. La riforma che noi dobbiamo fare sull'università, scusi, è la terza cosa che abbiamo, è un problema colossale, perché chi va all'università sono solo i figli di chi lo possono permettere. Abbiamo un accesso molto elevato all'università come altri paesi, ma abbiamo... Chi ci va normalmente sono le persone che vengono dal liceo, che sono tutte persone di reddito medio-alto. Le persone di reddito medio-basso vanno agli istituti tecnici. Okay? Allora, noi abbiamo quindi, dobbiamo chiarire qual è il problema. Primo problema, avere almeno una, due o tre università fra le top 100 del mondo. Secondo, raddoppiare almeno il numero di laureati triennali. E terzo, permettere ai migliori di poter andare nelle migliori università anche all'estero. Questi obiettivi non sono mai stati definiti, non sono mai stati chiariti. Perché questo? Perché l'università, per poter funzionare, deve essere meritocratica. L'università italiana, e le posso dire che ci sono degli ottimi professori, ci sono delle ottime università, come la Normale di Pisa, come alcuni aspetti politici di Milano, cioè l'università italiana è diventata il simbolo del nepotismo baronale. E infatti, secondo me, su questo, se uno desse dei soldi in maniera indiscriminata all'università, li darebbe, e lo dico in maniera molto chiara, anche a molti baroni, che abbiamo visto casi incredibili, facoltà di medicina, di legge, di giurisprudenza e quant'altro, moglie di, figlio di, insomma i giornali si sono riempiti di questo, non voglio tornare sulla polemica, per cui lì c'è un problema a mio avviso anche più grosso, perché mentre l'insegnante è, e lo ripeto, sottopagato per il ruolo sociale che svolge, e non se ne abbiano alcuni professionisti di altro genere, alcune partite IVA che scrivono, non c'è dubbio che l'insegnante ha un ruolo sociale più alto di chi fa altri lavori, ok? Detto questo, nell'università invece prima devi scrostare certi così blocchi di potere, che ormai hanno perso anche, a mio avviso, il senso della decenza, perché quando tuo figlio lo metti a fare il cattedratico della stessa facoltà di cui tu sei preside, oltre che baronia c'è anche un senso della decenza, così quasi estetico, che ti viene meno. Grazie comunque, anche se non sono d'accordo su tutto, ma mi piace proprio per questo. Grazie a Roger Abravanel, autore di Meritocrazia, un libro che portiamo qui e che molti di voi ancora ricordano, vedo dei messaggi, ed ex senior director di McKinsey. Che l'ascensore sociale in questo paese sia bloccato, lo dico a chi scrive, poi risponderò anche a qualche altro sms. Lo sappiamo, e ne abbiamo parlato una settimana fa con quel bellissimo rapporto di Italia Futura, in cui si capiva che rispetto a 20 anni fa i giovani stanno di più a casa, i figli di fanno il lavoro del padre e insomma l'ascensore sociale di questo paese si è bloccato rispetto anche a 20 anni fa, quando già non si partiva da livelli, diciamo così, americani. Grazie ancora, dottor Bravanel. Allora, la borsa, come chiedono alcuni di voi, secondo me in maniera poco lungimirante, non ce ne frega niente della mobilità sociale e della scuola, dateci la borsa. Vabbè, come battuta potrei dire spero che lei abbia comprato le Ubi ieri perché oggi mi ho perso il 2,90%, ma sto scherzando, no, attenzione, perché poi è inutile parlare di economia e di altri temi se poi non si capisce cosa significhi la formazione. Sono d'accordissimo su altre cose e altri commenti, stipendi di insegnanti inclusi. Ancora molti di voi sottolineano che invece le private hanno avuto più soldi. Sì, hanno avuto più soldi rispetto ai tagli che citavo prima, nel senso che per il 2010 avranno 4 milioni di euro, non è tantissimo. Se poi uno vuole giudicare invece più sul senso della cosa che non sul numero contenuto, liberissimo di farlo. Faccio solo notare che appunto l'università perde 620 milioni, la scuola media di primo grado ne avrà 160 in meno, le scuole private 4 milioni di euro in più, la borsa adesso però. Leggermente in ritardo, ma devo dire che oggi la giornata non è di quelle memorabili sugli indici. Qualche correzione era immaginabile, meno 0,5% Parigi, meno 0,7% Francoforte, meno 0,7% anche Londra, l'America perde lo 0,7%, tutto in linea. E dico anche che il tema che alcuni di voi pongono, come mai le borse continuano a correre se l'economia ha una ripartenza molto lenta, è un tema che così, è una domanda che ci poniamo da interi giorni e in settimane senza aver avuto nessun tipo di risposta. CIR meno 4,50%, UbiBank meno 2,90%, Unipol meno 2,3%, Prismia meno 2%, Eni meno 1,6%, Luxottica meno 1,6%, Generali meno 1,4% come Exor. Chi ha guadagnato anche oggi? Tenaris più 1,90, Bulgari più 1,7, Telecom più 0,70%, Popolare di Milano più 0,6 e Banco Popolare più 0,4%. Anche Ansaldo STS guadagna lo 0,4%. Il migliore in assoluto Safilo più 13% e poi Fastweb più 6,3%, bene anche Piaggio più 5,81 e BMW più 5,1. Male Lesnia meno 8,3, Tisca meno 7,80, RCS Media Group meno 5,8 e CIR appunto meno 4,4%, come sempre con Radio Core, Il Sole 24 Ore, oggi nella persona di Paolo Paronetto. Paolo, buonasera. Buonasera a tutti. Rapidi sui commenti per favore. Allora, le CIR. Sì, CIR è stato soprattutto una questione di prese di beneficio. Ricordiamo che i titoli della società avevano guadagnato terreno ininterrottamente dall'inizio del mese, dopo soprattutto la sentenza sul cosiddetto lodo Mondadori che ha imposto a Fininvest un risarcimento da 750 milioni. Ricordiamo che Fininvest ha deciso di fare ricorso in appello. Oggi comunque, dopo il rialzo che era stato di circa il 15% dall'inizio del mese, i titoli hanno perso il 4,48% proprio sui realizzi, innescati anche dai conti inferiori alle attese annunciati ieri dalla controllata Sorgenia e dal giudizio degli analisti di Chevreux che hanno abbassato la raccomandazione ad underperform da outperform. Ancora i titoli UbiBanca meno 2,90%, Unipol meno 2,3%. Unipol stanno per arrivare i conti, se non ricordo male, se uniamo anche UbiBanca. Esattamente, Unipol oggi è cominciata l'attesa per i conti che saranno comunicati a dire la verità soltanto il 12 novembre, ma oggi è uscito un report di Equita che ha avvertito su un possibile andamento negativo dei trend di business di Unipol in vista proprio dei conti che saranno rilasciati il 12 novembre. Per quanto riguarda UbiBanca vale lo stesso discorso per di molti titoli, cioè si tratta di realizzi dopo che ieri i listini avevano aggiornato i massimi dell'anno. UbiBanca resta tra i migliori del comparto bancario nell'ultimo mese, ha guadagnato il 5,75% contro l'1 o 2% di altri titoli Comuni Credit e Intesa, quindi oggi le prese di beneficio si sono concentrati sul titolo che ha perso il 2,87%. Ancora molti vogliono sapere di Impregilo, non si sa niente, il titolo oggi non si è mosso, per cui più 0,09, anzi meno 0,09%. Andiamo su altri titoli invece. Safilo, perché lo abbiamo annunciato, è in assoluto il miglior titolo del listino, più 13%. cominciato della notizia attesa ormai da settimane del salvataggio della società. Insomma, ieri il CDA ha approvato un piano che prevede l'ingresso di nuove risorse per circa 283 milioni con il passaggio del controllo. Infatti la nuova azionista di riferimento sarà alla fine del progetto l'olandese Hal Holding, che avrà una partecipazione tra il 37 e il 49%, mentre la famiglia Tabacchi scenderà dall'attuale 39% a circa il 10%. Il mercato ha festeggiato lo sblocco dell'impasse sulla società con un rialzo del 13% circa a 0,7 euro, che è il nuovo massimo dal febbraio di quest'anno. Su Piaggio e BMW, sul settore auto, abbiamo visto anche Fiat tenere bene, c'è qualche novità? Beh, tenere bene, poi alla fine Fiat ha perso lo 0,3 per la precisione. Però. Sì, infatti Fiat è stata in rialzo per quasi tutta la seduta, ricordiamo che già ieri era stato il miglior titolo con un più 2,9%, alla fine invece Giovatin è rosso e ha perso lo 0,35%. A tenere banco in ogni caso sono le attese per la trimestrale, che sarà resa nota domani, mentre si avvicina anche la data del 4 novembre, quella in cui sarà reso pubblico il piano di rilancio di Chrysler. Quindi ovviamente il mercato aspetta domani per capire le indicazioni sul titolo. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore. Adesso c'è il GR, poi parliamo del vertice ECO, quindi dati macroeconomici italiani, non solo produzione industriale, della Banca del Sud e di una buona notizia, perché ripeto, una buona notizia, il rigassificatore di Rovigo oggi inaugurato. Una battuta sola, c'è chi scrive: è chiaro che lei parteggia per gli statali. Allora, noi non parteggiamo per nessuno. Parteggiamo per i piccoli imprenditori, gli artigiani quando devono andare in banca, parteggiamo per chi è più in difficoltà, dopodiché io questa polemica sul fatto che gli statali siano tutti male non la capisco veramente. Certo, parteggiamo anche per gli statali quando si chiamano poliziotti, insegnanti, medici, infermieri, autisti di tram, parteggiamo anche per loro. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. E allora, come promesso, ci occuperemo di alcune notizie che riguardano l'Italia oggi diffuse e poi del rigassificatore di Rovigo. Chiudiamo con una bella notizia oggi, perché è un rigassificatore che permetterà di soddisfare il 10% del bisogno di gas italiano. Dicevo, sulle altre notizie, oggi ricordavamo i dati sulla produzione industriale e sugli ordinativi industriali e volete anche un aggiornamento di borsa e un aggiornamento delle ultime notizie sul tema del posto fisso. Poco fa, lo avete sentito, il Presidente Berlusconi ha detto sono in sintonia con Tremonti, il posto fisso è un valore. La polemica della sinistra sulla dichiarazione di Tremonti è l'ennesima conferma della malafede di molti esponenti della sinistra stessa. I dati sulla produzione industriale di oggi: calo ad agosto nel fatturato soprattutto del 21% anno su anno e del 27,5% negli ordinativi. La cosa sugli ordinativi che ripeto ha lasciato più perplessi è proprio il fatto che il calo più forte si è avuto nel mese su mese. Di questi dati, e questi dati ha commentato anche la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Intanto va detto che i dati di agosto non sono sempre poco significativi, perché agosto è un mese di ferie e quindi sono dati, oltretutto quest'anno con la crisi le ferie sono state ancora più allungate. Noi come dire, in qualche modo confermiamo che qualche piccolo miglioramento rispetto al trimestre precedente c'è, e questo lo vediamo dai vari indicatori. Questo però non significa che siamo fuori dalla crisi, come diciamo già da tempo la situazione è ancora difficile e abbiamo davanti ancora mesi complicati dal punto di vista dell'occupazione, dal punto di vista di una concorrenza e di una capacità di tenuta delle imprese che sarà sempre più complicata. Quindi noi confermiamo le nostre previsioni di leggero miglioramento rispetto ai mesi precedenti, ribadiamo però che la crisi non è finita e che abbiamo davanti ancora situazioni difficili. Sull'occupazione avete fatto previsioni? Ah, sono un po' quelle che abbiamo già date. Noi stimiamo al 2010 una disoccupazione al 9,5%. Ad oggi la tenuta dell'occupazione è migliore in Italia rispetto ad altri paesi europei, non v'è dubbio che sappiamo bene che avremo degli effetti nei prossimi mesi sull'occupazione che dovremo gestire con grande senso di responsabilità. Così appunto la Presidente Confindustria sul dato di agosto, anche il Ministro Scajola è intervenuto, ha detto occorre guardare i dati sul lungo periodo. Un'altra dichiarazione oggi che riguarda l'economia, in questo caso anche la finanza italiana, riguarda la Banca del Sud, una battuta del amministratore legato del gruppo Intesa San Paolo, raccolta dal nostro Andrea Viali, ha detto San Paolo abbia le caratteristiche di una banca di mercato. Il giudizio ovviamente può essere poi formulato precisamente solo sulla base dei tempi, dei modi, delle dimensioni che questa iniziativa prenderà. Se è un'iniziativa, come si dice, di mercato, come abbiamo già detto, benvenuta. Una cosa che ogni tanto si dice e che forse è l'unica cosa che mi sento di smentire, si dice le banche del nord vanno al sud, raccolgono i depositi e poi non investono. Ecco, la nostra banca, che forse è la banca più impegnata nelle regioni del sud d'Italia, raccoglie circa 35 miliardi e altrettanti investe, quindi depositi e impieghi sono più o meno equivalenti. Ci sono delle regioni dove addirittura gli impieghi, cioè i finanziamenti all'economia locale, sono superiori ai depositi locali. Ciò non toglie che ci possano essere a certe condizioni degli ulteriori operatori che possano portare beneficio, e quindi li vedremo all'opera. Sulla Banca del Sud anche il ministro dei rapporti con le regioni, Raffaele Fitto, ha detto restano le perplessità, comunque è solo l'inizio dell'iter parlamentare. Guardi, lo vedremo, io non nascondo, sono note delle mie posizioni di perplessità su questo, vedremo, adesso ci ragioneremo e verificheremo, è un disegno di legge, quindi adesso inizia un iter parlamentare, vedremo. Abbiamo avuto una discussione in Consiglio dei Ministri, ho posto una serie di questioni, vedremo. Successivamente, io personalmente ho delle perplessità sullo strumento e sulla sua efficacia, poi insomma, si apre un dibattito e lo verificheremo. Adesso, tra brevissimo, le informazioni per chi è in viaggio, una risposta la devo dare, perché alcuni di voi dicono lei difende i fannulloni. No, abbiamo difeso la dignità del lavoro di centinaia di migliaia di impiegati pubblici, non solo statali, anche regionali, comunali e quant'altro. In questo programma, lo sapete, abbiamo fatto decine di puntate contro gli sprechi della pubblica amministrazione, sull'inefficienza anche della sanità e soprattutto di quella del nostro mezzogiorno, per cui su questo non temiamo smentite, ma non diamo al termine dipendente pubblico necessariamente un'accezione negativa, perché sennò cadiamo nel qualunquismo, così come è sbagliato dire che diciamo, gli evasori sono tutti tra le partite IVA. Lo sappiamo tutti che esistono anche dipendenti pubblici fannulloni o col doppio lavoro in nero e quant'altro, però insomma, non penso che porti a nulla metterli tutti nella categoria di chi insomma produce poco. Non producono solo gli imprenditori, i commercianti e altre categorie professionali, anche i dipendenti pubblici quando lavorano hanno una funzione, a mio avviso, in alcuni casi anche più alta di altre categorie professionali. 18-17 minuti, chiudiamo allora con una buona notizia, visto che molto abbiamo parlato in questi anni anche delle fonti di approvvigionamento energetiche italiane. Ho inaugurato a Venezia, e oggi è stato fatto visitare a ministri, giornalisti e manager, il rigassificatore, il primo rigassificatore offshore, cioè al largo della costa, al mondo. È adagiato infatti sul fondale marino, è entrato in funzione il Terminal Adriatic LNG. Ci colleghiamo allora con Venezia, o meglio con la costa di fronte a Venezia, dove c'è in collegamento con noi l'ingegner Umberto Quadrino, che è amministratore delegato del gruppo Edison, gruppo che appunto partecipa alla società e ha la grande quota del gas che verrà rigassificato in questo rigassificatore. Scusatemi il gioco di parole, ingegner Quadrino, buonasera. Buonasera. Dunque, voi avete appena completato la visita al rigassificatore. Vediamo di capire perché dite che in questo modo, con questo rigassificatore, non ci sarà più il rischio blackout delle forniture di gas, come molti ricordano due inverni fa avvenne per la crisi tra Russia e Ucraina. La capacità di rigassificazione di questa struttura è di 8 miliardi di metri cubi. Il fabbisogno di gas dell'Italia è circa 80 miliardi di metri cubi, quindi stiamo parlando di un'addizione del 10% alla domanda complessiva italiana. Direi che un margine di riserva più che sufficiente per guardare con ragionevole tranquillità l'immediato futuro. Per i prossimi anni non avremo più rischi di blackout. Quindi, per spiegare a tutti, la nave, voi avete tra l'altro già collocato la quota che è arrivata dal Qatar, 6 miliardi e mezzo quasi di metri cubi all'anno. Insomma, le varie navi, quante navi potranno arrivare in un anno piene di gas liquido poi da rigassificare? Guardi, un centinaio di navi, direi 3 navi ogni 2 settimane, questo è il ritmo normale, quasi 2 navi alla settimana. In questo modo verranno rigassificati 8 miliardi di metri cubi, 6,4 sono per la Edison, pari all'80% quindi della capacità. Noi abbiamo già venduto nella campagna 2009-2010 questa quantità di gas sul mercato italiano. Ecco, 6,4 miliardi sono di spettanza vostra, l'altro miliardo e mezzo? Ecco, un miliardo è stato prenotato dalla BP, che quindi importerà del gas di sua proprietà e lo immetterà sulla rete nazionale. Uh-huh. Il resto è una capacità che rimane a disposizione degli operatori che ne fanno richiesta per scarichi spot, e quindi ci sarà la possibilità di dare flessibilità al sistema per tutti gli operatori che potranno contrattare sul breve termine delle navi per farle rigassificare e immettere il gas relativo sul sistema nazionale. Ingegnere Quadrino, ci aiuti nel compito in questo caso di tecnico. Cosa succede? Cioè, la nave carica di gas arriva, nel caso da Qatar o da altre regioni, con il gas liquido al suo interno e ha questa forma che alcuni di voi hanno visto in alcune immagini, con queste cupole, diciamo, dove si tiene il gas, un cargo enorme con queste cupole dove viene messo il gas liquido. E poi? Come dice la parola stessa, un gas si trasporta male, non è come il petrolio che lo carichi su una nave e può andare dove vuoi. Il gas lo trasporti o con un metanodotto, però quando il giacimento è molto distante dal mercato di utilizzo, i metanodotti sono o troppo costosi o impossibili da realizzare. Ecco, nel caso del Qatar sarebbe inimmaginabile un metanodotto che parte dal Golfo Arabico per arrivare fino da noi. Oppure bisogna liquefare il gas e poi rigassificarlo nel paese d'origine. Per liquefarlo bisogna raffreddarlo ad una temperatura di meno 162 gradi, e questo viene fatto in Qatar. Viene montato su queste navi metaniere che mantengono la temperatura a meno 162. Quando arriva a destinazione, questo gas così freddo viene messo in contatto con l'acqua di mare che è a 15 gradi e quindi viene riscaldato praticamente a temperatura ambiente, e quindi si espande e ritorna a essere un gas. Attraverso un sistema di pompaggio viene poi immesso tramite un metanodotto alla rete di consumo nazionale, ed è quello che avviene nel nostro caso. Attraversiamo i 17 chilometri che da questa piattaforma in mezzo al mare ci separano dalla costa e sbarchiamo a Cavarcere, e poi da Cavarcere si va a Minervia, dove c'è il lab italiano per la distribuzione del gas in tutta Italia. E quindi questo, in poche parole, è il processo che viene fatto. E forse qualcuno si chiederà: ma come mai siamo andati a finire in mezzo al mare? Beh, questo è essenzialmente per ottenere le autorizzazioni che sulla costa italiana sono difficili da ottenere. Le coste italiane sono molto belle, sono molto popolate, ci sono attività turistiche, e quindi c'è una posizione che tutti gli operatori ben conoscono, a scuro di questo tipo sulle nostre coste. Noi siamo andati a largo, a 17 km dalla costa, e attraverso un procedimento lungo e faticoso poi finalmente abbiamo ottenuto le autorizzazioni previste. Di fatto questo è l'unico terminale che è stato realizzato, ci sono una dozzina di progetti in Italia in questo momento. Allora, anche sulla storia di questo rigassificatore, che lo dico a chi scrive al 349-238-6666, non è il primo, è il secondo. Ce n'è uno che risale a 40 anni fa, dell'ENI a Panigaglia. È una struttura però onshore, cioè è sulla costa, non è distante dalla costa, e ha una capacità di produzione di 3 miliardi e mezzo di metri cubi di gas l'anno. Dicevo, in questo rigassificatore si condensa anche una storia di progetto, una storia ingegneristica, oltre che un'utilità operativa fondamentale, come lei ricordava. Praticamente, quanto ci è voluto a costruire il terminale? Perché, se ho ben capito, qui stiamo parlando di una struttura in cemento armato che è alta 47 metri, è larga 88 metri e lunga 180 metri, praticamente due volte lo stadio di San Siro, per dare le dimensioni. Non è una piattaforma offshore delle dimensioni, quelle che estraggono petrolio, che sono sicuramente più piccole. L'avete costruito e fatto costruire dai cantieri spagnoli di Algeciras, no? Esatto, e abbiamo scelto Algeciras perché era l'unico cantiere nel Mediterraneo che che aveva le dimensioni tali da poter ospitare una struttura di questo genere. La struttura in cemento è stata realizzata appunto in Spagna, vicino a Gibilterra, e quando è stata completata sono stati inseriti in questa struttura di cemento i tank, quindi i serbatoi costruiti in Corea, serbatoi in acciaio che contengono appunto il gas liquefatto quando viene scaricato dalle navi, per il processo di rigassificazione che avviene immediatamente dopo. Ecco, questa struttura poi da Algeciras è stata portata via mare con una serie di rimorchiatori fino al sito di destinazione, quindi al largo di Rovigo, dove è arrivata nell'agosto dell'anno scorso. E forse ricorderete che un anno fa abbiamo fatto una prima per festeggiare l'arrivo di questa struttura al largo di Rovigo. Poi in questo anno sono state completate delle vere e proprie strutture industriali che stanno sopra la struttura di appoggio e che permettono di rigassificare appunto il gas espandendolo e riportandolo allo stato appunto gassoso per essere immesso nella rete nazionale. E questo ha comportato il lavoro dell'ultimo anno e oggi finalmente possiamo celebrare l'avvio operativo. Un'ultima domanda, dottor Quadrino, per quello che riguarda lei ha spiegato che insomma è stato con questo 5 anni di lavoro poi trasportato, trainato da 4 rimorchiatori per appunto 3.000 chilometri e poi adagiato sul suolo marino a circa 28 metri di profondità, cioè la struttura, diciamo, poi chiaramente il resto è sopra la linea d'acqua, anche perché essendo appunto alto 47 metri ne ha almeno altrettanti sopra l'acqua. Però io vorrei capire una cosa, la società partecipata non è tutta Edison, perché dentro la società c'è Edison con il 10%, Exxon Mobil con il 45% e il Qatar Terminal Limited del 45%. Vi interesserebbe salire in questa società, perché di fatto voi siete soci di minoranza? Il nostro compito è quello di importare gas e quindi ci siamo assicurati l'80% della fornitura. Naturalmente la struttura di rigassificazione ci vede azionisti, in quanto siamo, diciamo, corresponsabili di questa joint venture, ma i due attori principali sono naturalmente chi produce il gas, quindi Qatar Petroleum e ExxonMobil. Gli accordi iniziali prevedevano un 45-45-10, così è stato, siamo contenti della partecipazione che abbiamo e penso che non varierà in futuro. Quindi per concludere, visto come avete già fatto a luglio un aumento di un'emissione di bond da 700 milioni di euro, non ritenete di aver bisogno, non solo per la quota nel rigassificatore, in generale di una nuova emissione obbligazionaria o nuovo ricorso alla liquidità? Direi che la situazione finanziaria della Edison è sotto controllo, noi abbiamo un debito intorno ai 4 miliardi con scadenze di debito molto lunghe, quindi non è tecnicamente necessaria un'emissione obbligazionaria, però direi che l'emissione passata ha avuto un tale successo e abbiamo soddisfatto solo un sesto della domanda complessiva, che stiamo esaminando il mercato, se le condizioni del mercato saranno tali da invogliarci a fare una nuova emissione, guarderemo con attenzione anche a questa opportunità. Grazie all'ingegnere Umberto Quadrino, amministratore delegato di Edison, in collegamento con noi appunto dalla nave che sta riportando le autorità e i vari manager a terra. Grazie e in bocca al lupo. Grazie a voi. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Berisoni l'augurio a voi in ascolto di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.